140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24 e il mio account @MartaCagnola, ma anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Parliamo di cinema e di musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Michele Placido è un politico che dopo un malore dice la verità. Il film Viva l'Italia racconta il nostro paese. Il regista Massimiliano Bruno. Qualche anno fa facevo uno spettacolo, un monologo a teatro che si chiamava Zero, dove io interpretavo tanti personaggi. Uno di questi personaggi era un cabarettista che ipotizzava che dei terroristi mettessero un siero della verità nelle metropolitane di tutto il mondo per distruggere l'umanità. E ci riuscivano, nel senso che comunque tutti gli esseri umani costretti a dire la verità interrompevano prima i loro rapporti personali, quindi divorziavano tutti, litigavano con gli amici, poi i rapporti di lavoro perché dicevano al capo ufficio quello che pensavano, quindi dopodiché scoppiavano guerre perché i paesi si cominciavano a dire quello che pensavano veramente. Ho pensato che piuttosto che una persona qualunque, se questa sindrome, diciamo, di dire la verità avesse colto un personaggio molto in vista, sarebbe stata gravissima. Quindi un po' io stufo di vedere personaggi in vista colti con le mani nella marmellata e che continuavano a dire che non avevano le dita sporche di marmellata. Infastidito da questo atteggiamento, ho pensato che forse poteva essere una bella idea per raccontare e lasciare ai posteri un'immagine di quello che era questo nostro paese nel 2012, perché questo è un film che secondo me adesso ha un, diciamo, il valore che ha, perché sai, come tutte le cose, è un film che verrà lanciato nei film, andrà più o meno bene o male, non lo sapremo ancora, tra pochi giorni si saprà, però forse fra qualche anno sarà un film un pochino che sarà una fotografia di com'era il paese, e il paese sta messo male. Come sta papà? Dice e fa tutto quello che gli passa per la testa. Merde! Grazie. Gli hai data la schiacciatina a questa ricca? Ma papà, Elena, mia fidanzata, dai! Non può proprio fare a meno di dire la verità. Bentornato, onorevole. Come sta? Non c'è male. Lei un cesso, come sempre. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. E già questo fa molto ridere. Sono intorno a me, ma non parlano con me. C'è un fil rouge in questo film, e che è questa trasmissione televisiva fantomatica sulla Costituzione. Roberto Benigni ha annunciato che farà questo evento speciale su Rai 1 dedicato proprio alla Costituzione. Vuol dire che è un bisogno che c'è nell'aria? È un bisogno, guarda, so che anche Emma Bonino sta lavorando a un libricino sulla democrazia per spiegare bene una cosa, che la Costituzione, quando ne parliamo, ne ha parlato anche Paolo Rossi, ne ha parlato Ligabue in un suo film documentario, non è per prenderla in giro, è per ricordare a tutti che abbiamo una delle Costituzioni migliori scritte nella storia dell'umanità, con dei principi democratici meravigliosi, e che dobbiamo semplicemente applicarla. Se si insegnano i principi democratici, allora le persone capiscono che nel momento in cui vorrai dare la vita per difendere i diritti di un tuo avversario, allora sarai uno che applica la democrazia. In questo paese invece l'avversario si vuole ammazzare a macetate, come in Ruanda 15 anni fa. Shocking Luxury, Milano. Un'enciclopedia della donna, un florileggio della femmina. Perle coltivate, l'album di Mauro Coruzzi, cioè Platinette. Cercare nel repertorio di una dozzina abbondante di cantanti italiane non è stato... cioè, non sapevo se farmi guidare dalla... l'idea basilare era quella che la canzone fosse sconosciuta, o meglio, non così popolare. Però man mano che le accostavo, vedevo che venivano fuori delle tipologie di donne. Hai ragione, è una specie di galleria, non attraverso le cantanti, ma attraverso le donne, che sono una diversa dall'altra: l'innamorata pazza, la persa per sempre, la demente cronica che già a 16 anni è totalmente sciocca. Sono anche, come dicevi tu, una specie di affresco del femminile, territorio del quale io non faccio parte, ma che conosco e amo al punto tale da non poter scimmiottare, semmai da poter guardare con l'adorazione di chi ha bisogno, quando ha sete, di abbeverarsi dalla fonte più pulita. Gli uomini in questo non sono capaci di tante varietà, non sono così assortiti. Alle 10 di sera, in un'altra atmosfera, si passa anche ai fatti. Come fossero acciughe, scatola in fila per due, ti pare che diventino matti. Vorrei proprio sapere che cosa hanno da dire, che cosa hanno da fare, uscire, andare, fare, dare, se in fondo per me. Di città ci piace i baci, senza sapere perché. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. Molte amiche hai coinvolto, ci sono dei nomi sempre all'insegna del nessun pregiudizio. Esatto, solo quello, perché essendo per conoscenza e per amicizia in alcuni casi da molto tempo vicino a tante, dico la verità, con alcune non ho proprio osato, perché l'imbarazzo sarebbe stato troppo forte per me e non avevano bisogno di una sottolineatura per la loro grandezza, che è già riconosciuta come tale. Altre sì, secondo me. Adesso, esempio, la rettore mi scoccia che venga considerata ancora adesso una cantante da due o tre hit e non quello che è stata una carriera meravigliosa, autrice di se stessa. Allora, vari sottolineati. Scrive come nessun altro in Italia ha saputo scrivere canzoni. Testi formidabili, uno dietro l'altro. Trovando questa, la mia più bella canzone d'amore, ma siamo molti, molti anni prima. Altro che le 50 sfumature di grigio della sottomissione, no? Di oggi, di cui si parla molto. Usa il cervello e non il cuore se vuoi davvero farmi male. Usa il cervello e non il cuore se vuoi davvero farmi male. Ed abbi cura di sapere che lui non debba mai tornare. Che lui non sappia del tuo amore. Perché davanti agli occhi miei ci sono solo i suoi. Perché Alberti, la qualità di una voce fenomenale che non ha paragoni, di un'intonazione perfetta, relegata, no, alle Finché le barche vanno, alle Vie di Ciclamine, tutte le canzoni peraltro pregevoli. Insomma, non è solo quello, sa fare molto altro. E questo mi piaceva sottolinearlo per l'ennesima volta, forse non ce n'era neanche bisogno, no? Poi se devo andare a chiedere a Ornella di fare un pezzo con me, le ho mandato il pezzo, lei ha riso molto, dice sei brava, vai a fare tu qualche concerto così non vado io con la simpatia che la contraddistingue. Però non avrei osato, perché mi sarei impaurito di fronte a tanta quel tipo di personalità. Tutto questo, la presenza emozionante per tutti quelli che amano la musica italiana di Maria Antonietta Sesini, un monumento, una donna che amiamo tutti. Lei ha fatto, Maria Antonietta, un'operazione con me meravigliosa, convincendomi passo dopo passo che non stavamo facendo una sciocchezza, che il mio gioco era anche qualcosina in più, che poteva essere, non dico emozionante sentire la mia voce perché mi rendo conto, ma mi ha molto rassicurato. Avendo lei scritto e lavorato con Giuni, il talento allo stato puro, mi è piaciuto che si sia rimessa in gioco scherzando, non avendo anche lei pregiudizi. Addirittura quando abbiamo ipotizzato questo possibile duetto, ovviamente virtuale, ho detto, ma certo, Giuni si sarebbe divertita come una matta a sentire una canzone di questo genere, dove non c'è bisogno di tutta la voce che Giuni aveva, ma c'è soltanto bisogno, insomma, di fare come abbiamo fatto, credo, una canzone allegra, perché è andata via male Giuni, purtroppo, per la malattia e tutto il resto. È una donna molto allegra, ha cantato anche cose molto spiritose. Aprite le finestre sopra i marciapiedi nelle strade, le ragazze innamorate vanno in giro scatenate, il cielo è azzurro, è primavera. Aprite le finestre. sotto il cielo è grande festa, non riesco più a frenarmi, mi viene voglia di cantare, per favore ti vuoi scostare? No. Recondita e felicità, vogliamo andare al cinema, felice ti stringevi a me, lasciandomi tentare. Io mi divertirei tantissimo a un live con questi brani e magari con queste amiche, prometti, ci lo farai? Sì, altro che, questa è proprio l'intenzione dell'anno prossimo, e in questo stiamo lavorando per cercare di combinare i vari impegni. Sono andato a vedere qualche sera fa, grazie di Michele che ha presentato il suo nuovo album, e mi ha detto se ha l'idea di poter fare qualcosa insieme. Si è molto, insomma, si suggestiona, rideva già da sola. Uno potrebbe pensare, vedi, adesso sfruttano le rispettive popolarità con Maria, perché è l'elemento comune. Maria non la conoscevamo quando ci siamo incontrati, io disc jockey e lei cantante. È da allora che siamo amici. Forse le anime quando si incontrano hanno una ragione per incontrarsi ogni tanto. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale, via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Spazio Pergolesi, Milano. Amici da 20 anni avevano un gruppo, La Forma, poi due carriere separate. Ora il primo progetto insieme, un CD per Irene Grandi e Stefano Bollani. Abbiamo fatto come quell'apologo, credo cinese, in cui, ora non mi ricordo assolutamente nulla, ma lo ricostruisco a modo mio, in cui viene chiesto a questa persona, questo architetto, se non sbaglio, viene chiesto di fare una casa e lui chiede 30 anni. Di tempo, e per 29 anni ci pensa, e nell'ultimo anno in un colpo mette sulla casa. Non ricordo se è un architetto o se è qualcos'altro, se è un cuoco. Credo che l'aneddoto esista da anni e sfuma sempre con colori diversi, ma in questo caso è un po' la stessa cosa. In teoria sono 20 anni che ci conosciamo e sono 10 anni che pensiamo a questo disco, in realtà l'abbiamo inciso in 10 giorni. In mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e silenziosamente costruire, e costruire è sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Come avete scelto i brani? Perché con una gestazione, una meditazione così lunga, poi far la casa con solo 12 mattoncini non è facile. Sembrerebbe un lavoro difficile, in effetti. Poi alla fine è stato più facile di quanto immaginavamo noi, perché ci siamo dati questi 10 giorni in cui comunque doveva venire fuori qualcosa di nostro, libero, perché non avevamo nessuno che ci diceva cosa dovevamo fare. È stata una cosa autoprodotta in uno studio molto tranquillo, con gli orari liberi, con una listona così di pezzi che in tutti questi anni erano venuti fuori e che poi si venivano scremati così. Cioè, voglio fare questo? No, questo? Ma questo quasi quasi sì. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per più affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. La pancia che borbotta è causa del complotto, è causa della lotta, passo il direttore. La zuppa ormai è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa col pomodoro. Viva la pappa pappa, è un capo po lavoro. Viva la pappa pappa col pomodoro. Si va dalla pappa col pomodoro, che ricordiamo però è un brano serissimo firmato Wertmüller Rota, al Brasile, anche qualcosa di vostro. C'è un momento in cui vi siete divertiti a fare qualcosa di particolare? In particolare il brano firmato da noi è un'improvvisazione che poi è diventato un brano lavorandoci sopra, ma è decisamente un'improvvisazione. Tra l'altro, ora che li hai citati, mi sono accorto solo ora che c'è anche un po' di filo rosso nella scelta dei brani. Non ce ne siamo accorti, nel senso che ci sono molti brani, come è ovvio nel mondo della canzone, che parlano d'amore, ma quelli che non parlano d'amore hanno una sottotraccia di di piccola rivolta, che sia interiore o che sia più rivolta verso l'esterno, perché sia la pappa col pomodoro che Roda Viva in maniera un po' più evidente parlano di rivoluzione, abbasso il direttore, dice la pappa col pomodoro, ma è un abbasso il dittatore in definitiva, per cui c'è, forse sono questi i due fili rossi che tengono insieme il disco, cioè la voglia di guardarsi dentro e da qualche parte, che sia dentro o fuori, fare una rivoluzione. Tem dias que a gente se sente como quem partiu. Morreu, a gente estancou de repente. Ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega Roda Viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas portas do meu coração. Sarà anche presto il momento del live, un bel po' di date, teatri prima di Natale, e anche forse il modo giusto per approcciare il mercato adesso, farsi il prodotto che si vuole e portarlo in giro, perché in un periodo di crisi, la parola forse che si ripete di più ultimamente, però anche per la discografia forse è la scelta giusta. Io ci credo che nei momenti effettivamente difficili, piuttosto che fermarsi, decidere di non fare o fare o lamentarsi che non, le cose non vanno più come prima, forse è il momento proprio di creare qualcosa di diverso, di nuovo, e si spera che i tempi siano giusti per la gente, anche magari dopo tanti anni che sono abituati anche il pubblico mio e di Stefano vederci fare un percorso, una cosa che ci ha dato un'identità, anche invece a un certo punto vederci rimetterci in gioco, provare qualcosa di diverso, può essere un incoraggiamento per tutti. Io aggiungo anche una cosa che vale, credo e spero, non solo nella musica, che non solo si dice sempre che nel momento di crisi poi alla fine la gente non tanto non potendo guadagnare da quello che fa, quantomeno fa le cose che ha voglia di fare, no? Perché si lancia nell'invenzione di un qualche cosa o nella scrittura di un romanzo o in una trovata, come solo noi italiani possiamo inventare. Ma penso anche, girandola, che invece chi ne ha la possibilità, come Irene e il sottoscritto, per cui siamo persone che vivono di musica da 20 anni, è giusto che facciano quello che hanno in mente e che non rispondano a una logica di mercato o a una logica di inseguimento del pubblico o del gusto comune. Mi sembra non solo giusto, mi sembra anche necessario, è quasi necessario. È necessario sicuramente per me, perché non vivrei se mi imponessero che cosa suonare, ma è necessario anche verso l'esterno, perché insomma, perché anche i famosi giovani sappiano che non solo loro, non avendo ancora la possibilità di accedere al mercato, possono sperimentare, ma è una cosa che bisogna continuare a fare anche dopo, una volta che si è inseriti nel mercato. Alle 5 di sera, bici, scarpe e corriera, il mondo si sposta. Io che sono nervosa e anche un pochino gelosa, c'ho paura che mi scoppi la testa. Vorrei proprio sapere cose che hanno tutti da dire, che cose ci hanno da fare, uscire, entrare, andare, dare, se in fondo per me. Dici baci, piaci, baci, senza sapere perché. Dai tempi dei ragazzi della forma, 20 anni fa, quindi avevate 20 anni. Irene, ma è vero che tu gli criticavi le fidanzate? No, perché è stata un po' la prima che è sempre stata un po' criticata, perché insomma, nonostante lui avesse fatto tutti questi sacrifici, fosse venuto a suonare col gruppo rock, gli si dava nemmeno, cioè 100.000 lire mi ricordo per la registrazione, ma poi lui addirittura per fare più il figo è venuto lì con noi a fare parte del gruppo e quindi manco più quelli si prendeva niente, perché si divideva, ci stava da pagare le multe, tutto avevamo questo, un sacco di problemi, tutto questo per una ragazza che nemmeno poi alla fine si la conquistò così completamente, quindi no. Insomma, no, non ci siamo proprio. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24 o il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.